Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 31 agosto 1997. Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa sera. Benissimo, benissimo, volevamo fare un saluto a tutti voi che ci seguite costantemente tutti i giorni e la cosa ci riempie di gioia, volevamo anche salutare. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao Ambra, sono Antonella di Roma. Ciao Antonella, come sei felice? Sono molto contenta di aver preso la linea, perché non sono mai riuscita fino ad oggi a prenderla. E allora sei stata fortunatissima. Sì, allora, tutte le volte che ho fatto una riflessione sul fantastico generazionale, ho constatato il fatto di averne attraversato almeno 5 o 6. Iniziato dagli anni 50, l'anno della mia nascita, anni 60, 70, 80, poi a un certo punto mi sono fermato, perché avevo la profonda convinzione che ancora non si fosse sufficientemente sedimentato un elemento mitico tale da poter permettere di ricordare con nostalgia gli anni 90. Cosa sono per voi gli anni 90? Ma non sono anni del tutto indifferenti, sono gli anni del grande passaggio, dello scavallamento. Nel 1995 viene messo in vendita Windows 95. Voi direte cosa ce ne importa a noi, no? È fondamentale. È stato il primo sistema operativo che ha reso amichevole il computer. Il computer da macchina di calcolo, da oggetto per scrivere lettere di segretario, comincia a diventare una macchina ad uso domestico, ad uso individuale. Ancora Bill Gates non aveva pensato però nel 95 che esisteva internet. Il browser Internet Explorer arrivò qualche mese dopo e iniziò l'epoca di internet, molto lenta nel nostro paese. Non è che nel 95 immediatamente le persone cominciano ad andare in rete e a cominciare a socializzare come si socializza oggi, in maniera istantanea, molteplice, stratificata, no. Ci sono voluti ancora almeno altri 10 anni perché ci fosse una diffusione così generalizzata della consapevolezza in una dimensione della relazione parallela a quella della vita quotidiana. Però negli anni 90 accaddero molte cose che noi non sufficientemente abbiamo considerato come degne di memoria, degne di ricordo, anche perché non avevano una loro specificità. Scrive ieri sul Corriere della Sera Luca Mastrantonio, che è uno scrittore e lavora all'Inserto Cultura del Corriere, è un pezzo che ci fa pensare che in fondo probabilmente la prima ragione per cui non c'è stata una mitizzazione epocale degli anni 90 è che gli anni 90 sono rimasti secondo me spalmati in varie epoche, ma soprattutto il pezzo di ieri, quindi analizzava la cronaca del giorno, dice: ma sembra strano, viviamo davvero nel 2014, Milano è sconvolta dalle tangenti, il compagno Primo Griganti è stato arrestato, in giro per il paese ci sono le bandiere di Forza Italia, i partiti sono in crisi e Monica Lewinsky crea problemi a Bill Clinton. E poi vanno di moda le camicie a quadri dell'epoca di Kurt Cobain, che mi ricordo che si comperavano, camicione felpate grosse, schifose, orrende, si abbinavano con degli scarponcini che erano molto in voga, come se si fosse sempre sul procinto di incamminarsi per dei luoghi densi di avventura, ma in realtà le nostre strade mai furono così scarse di avventura come negli anni 90. Settembre 1997, l'annata non promette bene. La terra trema, i miti ci lasciano, cos'altro? Ah sì, è appena iniziato il nostro ultimo anno di liceo. Luca Mastrantonio, ti ho citato perché ti fai portavoce da ieri su un'iniziativa del tuo giornale che però sconfessa quella che è la mia infame teoria, che in realtà nei decenni mitologici o degni di essere ricordati con un morso di nostalgia non erano ancora entrate nella mia esperienza personale negli anni 90. Cosa accade perché improvvisamente gli anni 90 cominciano ad entrare nei decenni considerati mitici, epici, che cominci finalmente la trattazione epica degli anni 90? Beh, io parto da una prova empirica che ormai sempre più spesso mi capita, in realtà sconfessa anche la mia speranza, perché la speranza che non passino mai gli anni della tua adolescenza vuol dire che in realtà il tempo non passi mai, ma molte volte mi capita di parlare di eventi, di fatti, di gusti, di musica, grunge o i mondiali, i rigori sbagliati, gli anni dei mondiali perduti, poi l'abbiamo anche vinto, quindi fatti degli anni 90, ne parlo con persone che scambio per coetanee, perché non chiedo la carta d'identità quando parlo. Tu di che anno sei, Luca? Io sono del 79 e mi capita di parlare degli anni 90 con persone nate negli anni 90, ecco. E questo secondo me adesso ne stai parlando con una persona nata negli anni 50, per cui gli anni 90 erano gli anni dell'analisi della televisione, gli anni in cui almeno io li vedevo così, gli anni in cui cominciai con attenzione a osservare questa sorta di riflesso nella televisione. Si parlava molto a televisione, erano gli anni dei programmi di Gregorio Paolini, erano gli anni di Ambra, cominciano con gli anni di Ambra. Una rivoluzione epocale, io mi ricordo la fila di ragazzini che andavano su al Palatino lungo la strada per queste ragazzine. Le persone che dicevano scandalizzate, ah, Dio mio, buon compagni, la telecomanda, la teleguida, ma nessuno si rendeva conto che in realtà c'erano bambine lì di 10 anni, 11 anni che zoccoleggiavano in maniera estrema. Quello ancora non era nella sensibilità del tempo. No, si autotelecomandavano. Beh, un'altra trasmissione che è seminale, come dicono gli accademici, è il karaoke. Cioè, in realtà nel karaoke la voglia del pubblico di partecipare, ovviamente con un gusto dilettantesco dell'epoca, che fa tenerezza rispetto a quanto è performante invece oggi il concorrente di un talent che è passato attraverso i reality. Anche il karaoke, in fondo, ovviamente... Fiorello con la coda di cavallo, ricordi, coattissimo. Con la coda di cavallo e queste giacche rosa shocking, incredibili. Sì, beh, era un animatore di villaggio. Guarda, la cosa che sta iniziando in questo viaggio, in questo ritorno al futuro che appunto stiamo facendo con gli anni 90 con Corriere.it e questa web serie, è in realtà la scoperta che è passato moltissimo tempo e, come dicevi tu, si sono spalmati negli anni anche successivi. L'idea incredibile del déjà vu che stiamo vivendo in questi momenti è stato anche il campanello d'allarme. Quindi la prova empirica, che parlo con persone degli anni appunto per me formativi, e quelle persone sono nate in quegli anni, quindi vuol dire che il tempo è passato. E poi c'è questa roba assurda per cui ci vogliono far credere che il tempo non sia passato. Alcuni déjà vu sono di cronache casuali, ma insomma alcune iniziative politiche o non solo invece vorrebbero che noi restassimo ragazzi per sempre. Quindi questa in realtà è una strana operazione narrativa fatta grazie a... Pensa come è cambiata Ambra dagli anni 90. Ambra sì, si è autotelecomandata benissimo. Io raccontavo a ragazzi nati negli anni 90 che appunto Ambra ha fatto di fatto uno spot elettorale all'epoca, con il diavolo e il Gesù o Dio che votavano, uno per Occhetto, uno per Berlusconi, una roba incredibile, cioè non ci credono, perché ovviamente non c'erano. Io c'ero e non avevo capito cos'era successo. Altro che Saturno contro e via dicendo, no, figuriamoci. Esatto, è incredibile. E quindi in realtà c'è questo, è un viaggio, non è solo nostalgia a cui diciamo ha diritto la generazione degli adolescenti degli anni 90, ma è anche un rito, è un esorcismo per far capire che quegli anni sono passati e bisogna ripensare il futuro, un futuro diverso dall'eterno presente. Negli anni 90 poi grandi pensatori ci hanno infinocchiato, da Baudrillard, anche allo storico che raccontava la fine della storia. Baudrillard disse: la guerra del Golfo non c'è mai stata, perché era solo televisiva. Ci hanno fatto credere la vittoria è quella della menzogna, in cui è tutto finto. È tutto finito. Però ci piaceva quella cosa. Io ci andavo matto, mi ricordo. Feci fior di trasmissioni. Sì, ci fregò tutti. Baudrillard ci fregò totalmente. Eravamo impazziti per lui, chiaramente. Perché? Perché era l'unica maniera per sentirsi di vivere il respiro di un tempo che in realtà non esisteva. Viviamo degli anni che non esistevano, perché non avevamo ancora capito quello che stava accadendo. Io l'ho visti molto in chiave mediatica quegli anni, ma una mia deformazione. Erano gli anni in cui c'era la centralità della televisione, tutti volevano parlare della televisione, i veri idoli erano gli esegeti della televisione. Erano gli anni in cui nacque il gusto per il revival. Improvvisamente siamo resi conto, avevamo tanto in magazzino da riproporre, potevamo anche smettere di pensare. Però non avrebbe senso questa rievocazione degli anni 90 se non facessimo un'analisi dei supporti, e proprio da un supporto nasce l'idea per cui parliamo questa mattina di anni 90. Eccoci qui, i protagonisti, gli eroi della storia, i ragazzi nati nel 79, quando c'era l'URSS, quando c'era John Lennon, e stamattina arrancano stanchi nell'Italia di Prodi. L'altro protagonista è lui, Torquato Tasso, con Giulio Cesare il Magnani, il liceo classico più esclusivo di Roma, così dicono. Questa idea di cui sta parlando Luca Mastrantonio nasce da uno scrittore, Enrico Buonanno, che appunto frequentava il liceo Tasso di Roma in quegli anni lì, e un giorno ricevette in dono una telecamerina VHS. Buonanno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma è vera questa storia o è un espediente letterario per raccontare? È totalmente vera e grazie al cielo ho filmini e cassette su cassette. Che ma chi ti regalò questa telecamera VHS? Che era una cosa gigantesca, orribile. Era abbastanza portatile, tanto da permettermi di nasconderla sotto il banco durante le interrogazioni, perché insomma riprendevo anche quello. E devo dire che fu un regalo dei miei genitori, però quello, come reagì io all'epoca? Reagì proprio dicendo: giriamo un documentario sugli 90, che può apparire incredibile, ma non lo è tanto, proprio per quello che stavate dicendo, vale a dire, erano anni indefinibili, erano anni in cui volevamo capire qualche cosa, perché erano anche anni che si erano aperti con dei crolli uno dopo l'altro, dalle bombe lì al Velabro, il crollo dell'URSS, voglio dire, il crollo del muro di Berlino, appunto, Tangentopoli. I frati francescani che cascano sotto la Basilica di San Francesco, una cosa, gli affreschi di Giotto, sembrava l'Apocalisse. Era proprio, sì, e però allo stesso tempo erano anche anni che comunque avevano una promessa che più forte di quella che possiamo rimediare oggi. C'era ancora il 2000 da attendere. Senti, mi conforti su una cosa, che tu hai una memoria storica diversa dalla mia. Come era percepita la rete nell'anno 97? Io già ci stavo dentro, ma perché ero già un vecchio appassionato, ma ancora la tua generazione era totalmente analogica. Ho ritrovato tra i vari filmini le registrazioni di io che faccio telefonate per il sabato sera e dicevo: andiamo a un internet caffè. C'erano gli internet caffè che si usavano più o meno per sperimentare questa strana cosa che si sapeva stava nascendo, ma non ne capivamo ovviamente le potenzialità, non c'era nella nostra vita quotidiana. Allora fermati un secondo, mandiamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo, che mi sembra un tema originale. Nessuno ha ancora mai trattato gli anni 90 come merce epica che possa suscitare comunque una riflessione nostalgica. Viene fatto per la prima volta. Melog. Cronache meridiane. Una cosa è sicura. Qualsiasi cosa avverrà in questo terzo liceo, io sarò lì con la mia telecamera a riprenderla. Non la lascerò andare via, perché il liceo, la scuola, il tasso, o lo si salva quest'anno o mai più. Mi ero interrotto con lo scrittore Enrico Bonanno, che ha riportato alla luce un reperto documentale degli anni 90. Nel 97 era al liceo Tasso, i genitori gli regalarono la telecamera VHS, che era un ordigno anche bruttino a vedersi. Allora le televisioni più scalcinate ancora andavano in giro per strada, si vedevano a fare reportage con la telecamera VHS. E lui con questa telecamera ha fatto quello che oggi fa chiunque con il proprio smartphone: ha ripreso il suo quotidiano scolastico, gli amici, le storie. Però un materiale enorme anche dal punto di vista dell'ingombro fisico, perché i VHS erano dei mattoncini, e mi sembra già di parlare come qualcosa di lontanissimo, e a casa ancora un registratore VHS, che è inutilizzato dai tempi dei cartoni animati dei miei figli, quando uscirono ancora in VHS. Quindi ancora c'è un'onda lunga di questi anni e del simbolo, del supporto simbolo di questi anni. Riprendo con Enrico Bonanno, vorrei soffermarmi proprio perché ho una maniacalità legata ai supporti. A casa tua c'era un registratore VHS, oltre alla telecamera che ti ha regalato tuo padre, sì? Sì, ovviamente, sì, era l'unico altro supporto veramente tecnologico che c'era, sì. E devo dire che prima parlavamo di rete, connessione. Io sto vedendo le reazioni alle prime pubblicazioni di queste prime puntate e mi rendo conto di qual è il punto, vale a dire, ognuno di noi appartenenti a questa generazione aveva i propri ricordi personali, ma proprio perché non esisteva la condivisione. Oggi, voglio dire, l'adolescente di oggi può subito mettere in rete, quindi esistono tracce. Esatto, c'è una dimensione che mancava, questo bisogna farlo capire bene, perché questo è il vero passaggio. La vera risposta che sto ricevendo è la sorpresa di poter rivedere colori, atmosfere, luoghi che di solito ognuno di noi conserva in privato, a volte anche nel privato del ricordo. Faccio una domanda a Luca Mastrantonio. Luca, ti rendi conto che oggi la sensazione che sta descrivendo Enrico Bonanno, rivedere, risentire, riassaporare quelle che sono le essenze sottili di un'epoca, una cosa che fa parte delle mie manicalità, cercare di ricostruire il senso di un'epoca, che non sono solo la musica, le canzoni, ricordi della televisione, e cercare di far capire qual era l'aria che si respirava. Oggi viene artificialmente ricostruito come se fosse una droga sintetica artificiale, quella dei film di fantascienza, attraverso Instagram e programmi simili. Per molti gli anni 90 sono il filtro di Instagram che ricostruisce le immagini di quell'epoca. Buonanno fa un percorso totalmente opposto e molto interessante, riporta il supporto originale, ci ridà la sostanza primaria che ridà il senso di quegli anni. Guarda, è esattamente questo, è un sapore che si vede nella luce, anche nella grana di queste immagini, e peraltro ricordo, si chiama I ragazzi degli anni 90 e va il martedì e il giovedì, poi le puntate si trovano tutte su Corriere IT, ma non è solo per i ragazzi degli anni 90, perché i nativi digitali non riescono, non possono immaginare un'epoca non documentata, e tra l'altro rispetto ai decenni che tu citavi prima, i 60, i 70, anche gli 80, che hanno avuto un racconto pubblico, sui 90 c'era veramente un grande cono d'ombra sul personale vissuto, perché non era più politico. Comunque la straordinaria è un'operazione proustiana quella che ha fatto Buonanno, però collettiva per fortuna, perché un tempo, una luce, dei suoni e veramente sembrano gli odori, senza voler essere troppo tini adolescenziale, però quello dicevi è tutto materiale vero. Beh, insomma, ci sono i ragazzi con i brufoli di un'epoca in cui erano diversi. Perché oggi in cui non ci si depilava le sopracciglia ancora. Esattamente, se blocchi delle immagini e fai un blow up, vedi delle cose che avevi dimenticato e che nessuno ti poteva riportare alla luce, perché veramente è l'ultimo decennio dell'ultimo secolo del millennio scorso e ci si era dimenticati di doverlo documentare. Lo sai perché è originale? Perché uno su mille, come Buonanno, usava il VHS per riprendere, gli altri 99 lo usavano per guardare le cassette zozze di Cicciolina, a quello serviva. La vittoria del VHS sul Betamax è stata questa, che il VHS ha cominciato a pubblicare i filmetti zozzi, improvvisamente si è aperto un universo e non c'era ancora internet. Buonanno, i brufoli legati a quest'altra suggestione ti danno altro materiale su quegli anni? Materiale ce n'è, perché naturalmente stiamo parlando poi di anni 90, è molto difficile trovare il punto di un decennio, è un decennio che siamo... Cos'è che non ti ricordavi? Che hai visto nella... Guarda, questa cosa non me la ricordavo proprio, che l'hai vista nel VHS e improvvisamente è stata la tua proustiana maniera per ricordare qualcosa. Devo dire la verità, ricordavo tutto in maniera mitizzata e mi è servito per ritornare alla realtà, voglio dire, appunto, l'epicità di alcuni sabati sera in cui si usciva e sembrava chissà quale divertimento, rivisto dal zero, e si vede semplicemente quattro ragazzi in giro in un quartiere disagiato, insomma, in macchina che scherzano, però in fondo questo è anche... A bruciare benzina, si girava a bruciare benzina. Devo dire poi che il senso, poi devo assolutamente dirlo, che il senso si trova anche attraverso il montaggio, questo è sempre così nella vita. Non c'è il pericolo che si trasformi come gli anni 70 della versione morettiana che hanno relegati ai suoi quattro amici del suo liceo, che questa versione degli anni 90 non sia legata a un certo gruppo di persone, di società, sì, di fetta di umanità che frequentava il Tasso a Roma? L'Italia era un po' più vasta. Non può essere altrimenti. Se vogliamo rievocare gli anni 90 in maniera autentica e non macchiettistica, io non potevo fare altro che raccontare i miei anni. La tua storia, certo. Però noi invitiamo, io vorrei che questo fosse lo spunto perché altri, tutti, chiunque lo veda attraverso Corriere.it condivida i propri anni 90. Si può dire, io non andavo al liceo politicizzato così, o non vivevo nella tua Roma, io facevo quest'altra cosa, e si può condividere ricordi per... Guarda che la politica, confermami questo ricordo, sì, nella tua generazione in quegli anni non esisteva proprio. Ah no, mi dispiace, ma non, sì, lo confermo, perché al contrario, dimmi, io facevo parte di quella rete di scuole politicizzate che vivevano di occupazioni, assemblee, anzi al contrario c'era un ultimo... Però non se ne accorgeva nessuno di noi adulti. Attraverso il rito dell'autunno caldo si finiva sui giornali, ma c'era quasi un citazionismo anni 70 anche nel voi stessi vestire. Voi stessi eravate il revival di quello che hanno fatto i vostri genitori. Totalmente. Era un po' una tradizione di famiglia, le mamme erano contente perché voi facciate quello che loro non facevano più, perché ormai avevano le vene varicose. Perché venivamo da un'epoca proprio di crollo di ideali, quindi c'era chi cercava di riproporre quelli vecchi, e quindi il revival c'era anche a livello musicale, noi ascoltavamo i Beatles, ma attenzione... Per far contenti papà, e vedi che c'era sempre una necessità. Ma lo sentivamo molto, sentivamo ancora quell'epica là, però allo stesso tempo lo sapete che è partito adesso il revival musicale anni 90, per esempio ci sono feste da ballo come il Borghetta che si fa a Roma, in cui gli adolescenti nati nel 96, quest'anno votano i nati nel 96, fa un po' impressione, possono ballare. No, aspetta, 95 vota, mio figlio è del 95, 95 vota, sì. 95, voterà mio figlio per la prima volta e non saprò manco, vedo che si guarda intorno smarrito. Questo è un altro dramma. I ragazzi del 95 quest'anno votano. Cosa, sì. Chi gli darà loro un'indicazione per poter votare? Beh, 96 sono 18 anni, o sbaglio? Siamo nel 14. Io so che la prima volta va a votare mio figlio adesso, che è del 95. Perché non ci sono state. Non c'è stato nulla da votare. Scorso, quindi, sì, sì. Votano anche. Abbiamo avuto tre governi senza bisogno di votare, è stata una gran fortuna anche per loro. E non so se continuerà avanti così. Va bene, io ti ringrazio che siamo arrivati alla fine. Tu hai dato l'inizio, io so già che da qua comincerà una catena inesauribile di supporto a quello che è stato il lancio della tua idea. Cominciare a dare corpo e sostanza a un decennio che finora non ha avuto assolutamente, un po' per carenza di supporti, un po' perché era un momento di grande passaggio. Prima della grande condivisione c'è stato il momento in cui c'è stato un attimo di stasi. Nessuno sentiva la necessità di fermare nel tempo, nella memoria, il tempo che stava vivendo. E ragazzi degli anni 90, svegliatevi, questo è il vostro momento, sarete celebri.